sono qui a pensare un po' in questo spazio nitido e cerco di capire se... Bien, y en la radiografía vamos a conectar vía Skype con Italia, con la bella Italia, para charlar unos minutos con un joven cantante. Él se llama Alessio Di Palma, es romano y habla italiano pero no español. Y como una servidora tampoco habla italiano, pues tenemos una traductora también con nosotros. Ella es María Cristina Carducci. Hola María Cristina. Hola Patricia, ¿todo bien? Todo bien y encantados de poder hablar contigo y de que nos hagas este favor de poder traducir nuestras palabras del español al italiano para Alessio Di Palma, al cual también queremos darle la bienvenida. Ciao Alessio, ¿cómo estás? Ciao Alessio. Ciao a tutti, todo bien. Estupendo. Bueno, María Cristina, nos gustaría que le comentases a Alessio, que le preguntases de nuestra parte, ¿en qué momento se inició en su carrera como cantante? Porque creo que ya comenzó a cantar siendo pequeñito, siendo un niño. Senti Alessio, vorrebbe sapere quando è iniziato la tua carriera e crede che tu l'abbia iniziata molto presto, che eri piccolino. Sì, è iniziata dall'età di 8 anni e poi è andata a svilupparsi a 17 e iniziando con degli amici per gioco facendo una band musicale. Hai iniziato a 8 anni e proseguì a 17 con una band di amigos. Ok, e quindi poi da quell'anno in poi ho iniziato poi a intraprendere questa carriera che porto avanti da almeno 14 anni, insomma. Dice che después empezó de los 17 años empezó su carrera y todavía continúa después de 14 años. He podido leer un poco su biografía, un poco su historia musical, y veo que él también tiene una formación a nivel, bueno, no sé si clásica, pero vamos, que ha recibido clases de canto. Ha letto que tú has recibido anche lezioni di canto, cioè una formación clásica. Sì, io ho iniziato con un insegnante jazz, una professionista jazz. Allora, empezó con una professionista de jazz. Ho iniziato a prendere lezioni con questa maestra, insomma questa insegnante di canto, e poi ho iniziato comunque la mia carriera, e quindi alla fine una volta che ho imparato ad usare la mia voce ho iniziato comunque a fare questo lavoro. Dice che ha cogito, come hai detto antes, lezioni di jazz da una professora e después ha continuato a cantar y ha hecho de esta su pasión un trabajo. Me gustaría que Alessio comentase a los oyentes cuáles son sus influencias musicales, cuáles son esos cantantes que le gustan y a los que escucha mucho. Vorrebbe sapere chi ti ha influenzato come cantante, a chi ti ispiri come cantante, chi ascolti. Allora, io inizialmente questa cosa l'ho iniziato a vedere con Alex Baroni, che è un cantante ovviamente italiano, e poi mano a mano mi sono ispirato per il genere che faccio, che è il pop R&B, a queste icone che sono Usher. Él si è ispirato a Alex Baroni, che è un cantante italiano, Usher, Nido, Justin Timberlake. E Justin Timberlake. E molti altri che fanno quel tipo di musica, quindi alla fine, anche se ne ho citati due o tre, va benissimo. Comunque, también se ispirò a otros che hacen este tipo di musica, e ha citato tre o quattro. Io so che Alessio, también en los inicios de su carrera, participó en concursos y festivales de la canción. Me gustaría que también nos comentase cómo recuerda aquella época, esos nervios que se tienen en los concursos y en los festivales. A Allora vorrebbe sapere, sa che tu hai partecipato a diversi festival, vorrebbe sapere il tuo stato d'animo quando partecipavi a questi Ok, e lo stato d'animo tanto comunque è pur sempre di un'emozione molto elevata, anche adesso, tuttora che faccio magari un concerto o cose simili. Dice che la sua emozione ha sido sempre molto elevata e todavía, e anche noi, è sempre molto forte. Continua, continua Alessio. E quindi insomma, soprattutto anche in queste kermesse o questi festival, insomma, è veramente forte l'emozione perché ti trovi davanti comunque o una platea molto numerosa o comunque anche un pubblico televisivo, insomma, diciamo, quindi io ogni volta che salgo sul palco comunque l'emozione è forte, quindi diciamo che è sempre un'esperienza molto molto toccante. Dice che sempre sta l'adrenalina al 100% e che sempre, anche noi, che continua a salire in questo palco e a cantare, è molto forte l'emozione di essere ascoltato di moltissima gente. Supongo que para Alessio Di Palma una fecha importante, un año importante para él, fue el 2004, porque me parece que es cuando conoció a su actual productor musical, T-Box. Allora, mi ha detto que la tua data importante è stata nel 2004, que hai conosciuto T-Box. Sì, il produttore artistico, sì, ho capito. Il produttore artistico, quindi le tue impressioni. Sì, è stato un anno veramente importante perché comunque questa persona che attualmente è con me in tutti i progetti, ovviamente. Questa persona per lei è molto importante perché l'ha seguito in tutti i progetti. E quindi comunque mi ha cambiato letteralmente la vita musicale. Mi ha cambiato totalmente la sua vita musicale. E quindi comunque è un personaggio veramente importante nella mia carriera artistica ma anche personale di vita e che mi ha dato comunque tantissime cose per poter intraprendere questa carriera, no? È una persona molto importante non solo artisticamente però anche in sua vita perché le insegna molte cose. Hasta la fecha lleva realizadas dos giras, dos tours musicales. La primera fue en 2010 y creo que ahora se encuentra, no sé si todavía de gira, de tour musical, o ya ha terminado esta segunda que comenzó en marzo de 2012. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Hasta punto sa da informazioni che tu nel 2010 hai fatto una tournée. E che lei ne hai fatta un'altra nel 2012, marzo credo, sì. E che è stata un'esperienza molto bella, volevo sapere qualche cosa di più. Beh, poter intraprendere una tournée musicale, insomma, è sempre una cosa entusiasmante, nel senso si conoscono vari punti varie location dell'Italia o del mondo, insomma, a seconda di dove uno riesce ad andare. E sì. Che dice che è molto importante e molto emozionante perché te conosce in molte parti d'Italia, hacer una tournée viene conosciuto da molti persone. E poi dico, è bello perché comunque hai un contatto diretto con il pubblico, vedi le reazioni della gente e comunque vedi delle cose che inizialmente l'Eleonoti con degli artisti che comunque tu vedi e comunque tu conosci, ma che inizialmente, cioè che poi riesci a fare anche tu, insomma, personalmente. Come è emozionante tenere il contatto con il pubblico e ver la reazione della gente quando él canta y pensar que antes de él muchos otros artistas han pasado lo que las emociones que ha pasado él. E niente, quindi comunque poi si vivono delle realtà che inizialmente le vedi solo fare ad altri artisti, insomma, conosciuti, o comunque le vedi fare da casa, ma poi vai a contratti, quindi insomma le vivi di persona e vedi proprio la realtà effettiva di quel tipo di movimento. Quindi anche se sei in un grande centro commerciale, un negozio, oppure una grande piazza dove comunque c'è già sul palco è già passata una persona importante prima di te, quindi insomma è una bellissima sensazione. Dice che è una sensazione molto bonita e molto importante passare in sitios dove hanno passato già personaggi molto più importanti di lui, e è una emozione molto grande. Bueno, pues sabemos che sigue promocionando su disco Inevitabile. Y supongo que, no sé si estará dentro de sus proyectos, pero supongo que le gustaría también realizar un tour fuera de Italia, ¿no? So que ha promosso questo disco Inevitabile e ha in progetto di fare un tour fuori dell'Italia? Ma sicuramente il progetto di andare fuori dall'Italia è una cosa che stiamo vedendo e valutando. Ben venga, magari si possa fare, comunque si possono fare delle tappe fuori dall'Italia, perché no? Così almeno comunque il progetto e la musica arriva anche a delle persone che sono al di fuori dall'Italia. Me gustaría muchísimo poder hacer tour fuera de Italia, así también su música y el mismo ser conocido por personas. Hasta que llegue ese momento, que yo espero que sea pronto, el poder salir de Italia y poder hacer giras por distintos puntos de Europa, incluida España, le deseamos a Alessio Di Palma toda la suerte del mundo y que esperamos eso, que también visite España. Lei ti augura che tu possa realizzare questo tuo sogno di andare, di cantare fuori dell'Italia e particolar modo in Spagna, ti aspettano tutti quanti. Bene, sono fiero e onorato e felicissimo di poter venire in Spagna e in altre parti d'Italia, cioè scusami, dell'estero, per poter fare una tournée anche fuori dall'Italia. Insomma. E sarei molto contento di poter fare una tournée, in special modo in Spagna, e spero che questo sogno mio si possa realizzare. Muy bien, pues no nos queda más que darle las gracias a Alessio Di Palma por haber estado estos minutos con nosotros y que, por supuesto, su música suena y sonará en nuestro programa, en nuestra emisora, y también darte las gracias a ti, María Cristina Carducci, por haber realizado la traducción. Gracias a ti. Gracias a tutti. De parte de Alessio, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Un saluto da Alessio Di Palma a tutti gli ascoltatori di OID Radio Cantabria, specialmente al programma La Radiografia condotto dalla meravigliosa Patrizia Prida. Vi lancio il mio nuovo singolo, Inevitabile. Sono qui a pensare un po' in questo spazio nitido e cerco di capire se ho perso quel che c'è. Mentirei se dicessi che non vorrei più vedere te, ma sento come scendere nella pioggia su di me. Non è semplice parlare quando si è davanti ad un dolore che penetra in con me.